io spargerò i semi dentro al vento e poi taglierò le radici che ho, un anello al dito metterò e dopo ti rinnegherò e dopo ancora ti odierò. Per te, nuovi autunni e primavera.